Segui la moda, fai quel che fanno gli altri, poi ti lamenti, sei troppo avanti. Scrivo magie, ma tu non preoccuparti, farai di meglio, sei troppo avanti. Sai tutto tu, e niente sanno gli altri, mi vien da dire, sei troppo avanti. Hai mille amici, pronti a criticarti, sei troppo avanti, na, na, na, na, na. Per fortuna che esisti, na, na, na, na, na, na, na. Sei troppo avanti, na, na, na, na, na. Dimmi quante ne pensi, na, na, na, na, na, na, na. Sei troppo avanti, na, na, na, na, na, na. Per fortuna che esisti, na, na, na, na, na, na. Dispiace se non riesco a emozionarti, non vergognarti, sei troppo avanti. Vorrei davvero risponderti, ma sappi, mi vien da ridere, sei troppo avanti. Tu non balli, non giochi e non canti, però fai il critico, sei troppo avanti. Cosa sai fare senza l'aiuto degli altri? Non hai risposte, sei troppo avanti. Sei troppo avanti, na, na, na, na, na. Per fortuna che esisti, na, na, na, na, na, na, na. Sei troppo avanti, na, na, na, na, na. Dimmi quante ne pensi, na, na, na, na, na, na, na. Sei troppo avanti, na, na, per fortuna che esisti, na, na, na, na, na, na, na, na. Sei troppo avanti, na, na, na, na, na. Dimmi quante ne pensi, na, na.